48 forse, tra l'altro era 42, forse questa 48 o 46, non me lo ricordo. Ma 42 a me mi va, mi sta più che bene, va molto bene, si vede bene, e ogni tanto ci guardiamo quei film in 3D, ogni tanto però, perché ci conviene prendervi a noleggio. Non so, se no vale la pena, costa un po'. Ma non più di tanto, 8 euro li ho visti io, ma fanno belli cartelli animati, di film, proprio film, ne fanno pochi in 3D, se no tasso. No, ho visto questi cartelli animati in 3D, 8 euro. Li ho visti, mi pare, a Città Mercato. Quando io ci vado poco. Mi piace andare a dire se ci vado veramente poco, mi anche limitare a fare un po' di giretti così, perché mi sto mille cose da fare, mi volo, mi sto fossilizzando e non sto più controllando niente. Male. E vabbè, magari ti stai facendo dei lavoretti e ti chiudi in casa, capito? E quello è. Il mio collega aveva molto Guzzi, là tutto aggiustato, siccome era 5 anni che non lo usava, praticamente gli è decaduta l'assicurazione e doveva ricominciare da capo. E allora l'ha messo sull'occasione, ha trovato questo tipo, dopo che l'aveva speso una barca di soldi, mi pare 600 euro per mettere tutto a posto, rifare il motore, eccetera, eccetera. Ha trovato questo tipo che c'era 127 abbat e hanno fatto scambio. Ho capito. Sì, certo, quando l'ho messo a posto io avevo detto che nemmeno la capotaccia ho comprato con quel prezzo, mi chiamo meno se l'ha lasciato. E vabbè, ma adesso c'è la sensazione che ce l'hai come qui. Sì, vabbè, però. Lui, mi sta addormentando, che ore sono? Meno 10. Cercando qualcosa ma non lo trovo. Avanti B2, avanti, non siete a B2. Buonasera. Ma non è che avesse chissà che cosa, un po' di motore l'ha messo a posto, eccetera, eccetera. E l'impianto elettrico, era di quelli tutti cromati, era un bel bello, si è battuto cromato, io l'ho visto. Fabrizio, avanti, Fabrizio B2. B2, ben sentito. Già ti ascolto, non so dove sei, non altissimo, ma già ti ascolto, avanti. Questo è qua tutto casa mia, Porto Torre. Provincia di Porto Torre. Pappaga, B2, beh, poi com'è andata quell'apparecchio là? Cazzo! Com'è andata poi per quell'apparecchio? Deve uscire con 4 watt almeno. Quanto stavo dicendo, Fabrizio sta vendendo il Galaxy Saturn Echo, se ti interessa B2. C'è Claudio che sta vendendo un po' di apparecchi, se ti interessa, no? C'è anche un arancolato che ho modificato che sta vendendo, ma quello costa un po', Ehi, Abidu, dai, buon proseguimento, ci sentiamo, avanti Fabio. Ciao B2, ben sentito, alla prossima. questo trovare quello sta cercando. Sì, no, lo voglio dare via perché è scollegata, insomma, ho preso il frequenzimetro, carico fittizio di saldatore, cazzo, no, non c'è più spazio, mi serve spazio, finché non riesco a trovare una stanza dedicata, mi serve spazio, e quindi se riesco a darlo via, senza svezzare lì però la pubblicità, intero per un primo scatto, infatti lo sto svendendo, va bene. Vabbè, non sei sicuro ma tu di darlo, di la verità. Quindi se avessi avuto più spazio l'avrei messo in un angolo e non l'avrei dato, l'avrei collegato con un commutatore. Pensato, non sto nemmeno usando perché l'antenna l'ho collegata col commutatore su un altro radio, quindi mi viene male. Però già si ripari tutti, anche perché lo do con l'MVP 5 che non che costa forse 70 euro quel microfono, è nuovo nuovo. Paga. Vabbè. Ma adesso ci sono un po' di pochi flussi insomma, in giro. Io mi sono morto in vendita, ma le risposte che vi danno sono di permut che a me non mi interessa. Non riesco a venderla. Perché c'è fame, un po' di crisi, c'è un po' di fame. C'è più commercio, un casino. Mi ha detto questo amico mio che si ha portato il negozio di moto davanti a noi. Mi ha detto che sicuramente lo chiude perché ci ha venduto all'inizio d'estate e sembrava che andasse alla grande. Ha venduto in un mese, ha venduto mi pare 6 moto, 7 moto. E poi ha detto che c'è stato un calo di brutto. Se ne vende uno ogni tanto, anche a seconda mano, per giunta, e dice non fate dell'aperto per niente. Lo so, adesso sono più soldi, è un macello. E cosa si vuole fare? Chiedita. Via, l'ho messo su subito.it, ho messo la fotografia tutto quanto, è scaduto il tempo e se lo stavo dando una cazzata, mi sono 3.600 euro, ho pagato 7.000 euro, è del 2007, la moto buon valore, ben tenuta, tutto quanto, sempre taglia andata e tutto. Quanto è valutata adesso? Ma penso sui 4.000, penso sui 4.000. E qui è stata finita la stagione, quindi la vende ancora di meno. Lo so che è così. Ma la stagione me la uso io. Tanto c'ho bollo di assicurazione sino allora il bollo ce l'ho sino a febbraio, a gennaio, l'assicurazione sino a febbraio, quindi problemi non ne ho. E poi la volta che si vuole te la fermi, non vuole andare a qualche venditore di moto. La voleva, ma la devo fermare, poi te la trattano male, spostandola, te la graffiano, ti fanno... Magari poi la fanno invecchiare. Lo so, però... Però, un apparecchio uguale al mio che stanno vendendo, vediamo. Anche io questo ce l'ho in più, ma anche questo lo volevo far fuori. Che cosa? È un apparecchio più grande che c'è che non ho mai usato. Ho avuto problemi perché c'è una partita che sto terminando e quindi non ho tempo. spero di finire in settimana, ma entro il mese di riuscire a montare qualche antenna per fare attività in HF. Cazzo. E dove sta trasmettendo adesso? In 10. 10 metri pure? Perché c'è la gente? C'è la gente. Quindi ha voglia, dipende dalle ore. Vabbè, che per fare ascolto ci possa andare, non c'è problema. Lì c'è. Io ho venuto anche il ricevitore perché non c'avevo tempo, perché stavo sempre qua in radio, ho detto adesso non venisci uno e non aggiorni uno nei lassi. Mi Antonello, mi avvanti. Ehi, buonasera. Aspetta un attimino, ho regalato una cosa veloce. Apostrofo. Sì, ok, se non vuoi già te lo vedo, comunque buonasera. Ma che cosa? Il portatile. Perché? Perché c'ho l'RZ1. E non te ne sai più nulla di questo. Ma le stesse frequenze. Pagato. Prezzo proprio ottimo, 300 euro già. Affarista, il 200% sta guadagnando. Ah, sto scherzando. Aspetta un attimo, mi sta chiamando mia moglie. Fabri, affarista. Vuol dire che gli serve, lo vuole prendere. Ma io ho il papello del papperone. Come rientro lo saluto e mi sposto, che sta per iniziare un programma che mi interessa e mi mangio un qualcosa. Tu mi stai guardando molto spesso quel programma di Max, non so se tu lo guardi. Forse sì. Appagato. È bello perché fanno vedere come nascono le cose, come le costruiscono, eccetera, eccetera, eccetera. Ma riusciamo a vedere la cosa veramente carina. Lo so, ma se vai anche su internet, sui video, lo so, tu c'è di questi come è fatto. Ma entra i vagoni. Buonasera, scusa, sono tornato, Buonasera a tutti, buonasera. Piani, vedi. Mi hai ricordato di accendere la TV perché c'è di Max, ma siamo qua. Avanti, riprendi Fabri. Ciao Lucariello, ben sentito, io riprendo e ti raggiungo in compagnia, che volevo io vedere un programma che sta iniziando a ballare, ve lo voglio vedere almeno la presentazione per vedere di cosa si tratta oggi. Fabri! Ehi, ciao, dimmi bombo. Luca, buonasera a tutti. Antonio Bombo da questa parte. E allora? Ciao Antonio, dai, sto mangiando, ci sentiamo dopo. Ciao Fabio, alla prossima. A te, ma Antonio, riprendi. Ehi, appetito. Buonasera anche a Bombolo. Buonasera. E allora? Grazie. Buonasera Antonello. Yeah, buonasera anche a te, l'hai sentito. Allora, stavo ascoltando, stavo. Prova a posto. Ci proviamo, dai, cerchiamo un pochettino di ravvivare la situazione, tutto lì. Gamma, dai. Continuate voi. Io devo spiegarmi un po' di cose. Avanti già. Ehi Antonio. E poi lo voglio vedere quello che ti ha preso il ricevitore, come quello, ma grande. Quale? A me stai dicendo già. Ehi, quello della chiusa. Guarda, è Raffa Napoli. È grande quanto il Midland alla 68, ha la stessa grandezza e c'ha un saccaccio di frequenze. E aspetta che io sto chiudendo, l'RZ1 praticamente è grande quanto l'autoradio. Io ce l'ho avuto da ragazzino in macchina, ce l'avevo al posto dell'autoradio, mi avevo pagato insieme a 900.000 lire all'epoca, un patrimonio. Ha la grande questo natolario, proprio in lì, quindi ci sta all'interno del varo dell'autoradio. Io passo in corretti che vado a vedere una presentazione di questo programma. Paga che ti fanno incassare, poi Fabri, non le guardare. E vabbè, vado qua, poi già che ritorno. Mamma mia, vabbè, non è per me. Vedere questi programmi di politica di donne, ma carità. Non so se lo ritorneva la voce, poi dice adesso parla che quattro ore. No. E arrivo. Ma Fabrizio sta chiudendo? Capo, dai Fabrizio, ti saluto, dai. Ehi, la sta chiudendo. Via, Fabrizio, ci sentiamo alle prossime allora, buon proseguimento. Fabri, quando vuoi siamo qua. Sempre un piacere. Avanti, Antone di nuovo. E a te volevo togliere una curiosità già, siccome non sono molto pratico, stavo facendo un po' di radioascolto in bande laterali, ma giustamente non si può entrare. Comunque, i pirati sono tutte le parti, ci dovrebbe essere anche lì in quelle frequenze. Ma durante la... devi fare sempre quel procedimento di chiamata ogni volta? Per entrare? Sì, esatto, è per farti una chiacchierata. Ma non si può entrare, Antonio, quando abbiamo preso, non è la partenza. E nei 45 metri ce ne sono molti di pirati. Ci sono molti pirati, e a quanto so io entrano con nominati di fasulli eccetera eccetera, però è una cosa molto rischiosa e contro legge. E quello sono pienamente d'accordo, ma diciamo questi pirati ce ne sono, sicuramente ce ne saranno abbastanza anche nelle bande laterali, o sbaglio? Nelle bande laterali non lo so, Antonio, perché vabbè. Ci sono delle frequenze che si ascoltano in banda laterale, capito? E quello sì, però diciamo se uno ci vuole provare un esempio, deve fare sempre quel procedimento lì di chiamata sempre, giusto? Capo, devi fare il procedimento di chiamata come fai qua al break, lì devi fare il procedimento di chiamata. Veramente dico, si chiudi X, ok, poi devi, poi ci sono altre cose che dico, sinceramente non ho mai capito un baffo, potevi dare le coordinate, il nominativo, cose del genere. Ecco, vabbè, comunque alla fine se sono tutti quei pratici in altre frequenze, in altre frequenze lasciando perdere per dire la banda laterale, non credo che siano tutti questi controlli, no? Ma se ti beccano sono cacchi due, a parte che con te ci sono dalla stessa parte di amatori. Perché se sei una persona che non le risulta, loro vanno tutti nominativi, eccetera. Se non le risulta la segnala, è normale. Per dire, gli 80 metri da 3.500 a 3.900 si va dall'SB, i 40 metri da 7.000 a 7.100 dall'SB, i 45 da 6.560 a 6.600 in LSB, i 20 metri da 14.000 in poi in USB, i 10 metri dal 28 al 29.999 in USB. C'è un bel giro, dai. No, siccome facciamo un po' di radioascolto, c'è una bella propagazione in tutti i canali. E c'erano anche, diciamo, radioamatori, dai, italiani che si collegavano oggi. No, era abbastanza accesa. Vabbè, se ti imporra questa cosa, ti prendi la patente e sei tranquillo. Così ne prendiamo un altro. E fra poco... ci suicidiamo. No, per carità, ma non è per me, non è che mi interessi più di tanto prendere la patente. Diciamo la 27 la vedo molto più libera, senza questi giri strani, questi nominativi un po' particolari, via. E poi, la vedo molto più libera come frequenza, ecco, è un faccia a faccia, in poche parole, tutto lì, senza nessun... è abbastanza ristretta, le vedo come frequente quella, anche se bene ugualmente sono belle esperienze, però la 27 la vedo più libera, più casericcia. Sì, è più familiare. Poi noi ci conosciamo quasi tutti, quelli che parliamo ci conosciamo. No, è più familiare la verità. Anche se io avevo sempre il coso di non rompere questa cosa che c'è, che non ti conosci l'uno con l'altro, e pensare come è fatto l'altro, capito? È bello, come parlare al telefono con una persona che non conosce la stessa cosa. E quello sì, no, è già bello anche conoscere nuove persone che diciamo che hanno la tua passione, poi se la amicizia è buono, perché no? Si continua a coltivarla e fare anche diciamo ampliarlo l'hobby, ampliarlo, modificarlo, farlo sempre migliore possibile, ma è un modo anche per stare in compagnia. Poi a volte non è detto che la compagnia funzioni, purtroppo funziona anche qui così, però già è sempre bello, dai. E infatti io giocami tutti, non me ne affatti nulla di quelli che non vogliono essere amici, non mi interessa, io sono amico di tutti, poi vedano loro se darmi non di amicizia. E vabbè, te che le facchere. Ieri stavo chiamando a Pomponio e ecco che entrava invece, sicuramente anche ieri la diarrea come sempre. Diarrea. Sì, Pomponio soffre di ha problemi, dunque quando la maggior parte delle volte quando entra poi all'improvviso non lo senti più perché è in bagno. Una tracannata, una cassa di birra. Più di una sicuramente. E poi adesso che sto facendo che lo spicco da poco, vai a casa. Il minimo. Allora, è un droglione, cosa vuoi fare? E via. Ci ho provato anche oggi, niente, nessuna chiamata, anche oggi tutto il giorno. Facevo un po' di giro di canale, ma niente di particolare. Mi ha fatto compagnia la banda laterale, ce n'era un bel po' di cianfrusaglia lì. Come? Dimmi, Bombolo. Pare 12, 40 dolce, 12, 13, 14, uno di questi giorni. E cosa c'è? Pesce. Ah, e cos'è? Intorno a fine settimana risultano questi giorni? Ma inizia al 12 la festa, c'è con la prima serata concerto rock, con la festa della birra, alla grande, a crema dura. Ma da poi pesce studio 3 e più varietà. Sono dei ragazzi famosi e poi c'è come niente di nara, c'è latinoamericano, balli e cose, l'ultima serata. Questo tanto farà sempre dalle 8 in poi, le 8 di sera. Gaffa, aspetto della Madonna da te oggi. Ciao, se c'è il tempo me lo faccio una scappata, dai, possiamo vedere queste scene qua, tutta la famiglia lì, con le scuse le scappo così, passi una giornata diversa, in paese non c'è niente per il momento, nessuna festa ancora. Caffa, se lo sai lo fai, sì. E la te dolce, dimmi pa. Pa. E lì dove sei colto? Dolce Marzana lì la fanno. E no, poi già riesco a trovarlo. Ma non c'è del problema, già la conosco bene Sassari. Ma l'anno scorso ci siamo divertiti un bel con Popia. Capito, un bel? Divertiti molto con Popia. Ah, il cantante? Il concerto che ha fatto. Scatenato. Io l'ha fatto sempre lì quella zona, l'hanno disegnato dell'anno scorso, di quest'anno. Scorso, l'anno scorso ha fatto un concertone, bello, siamo divertiti un bel, poi ne prendeva due alla volta del pubblico, un fatto. Prendeva due alla volta del pubblico e poi faceva la fotografia con lui. Si è fatto la fotografia con tutti quelli del comitato, con la fotografia con chi si decide, la fotografia con chi si decide, infatti. Vabbè, già un è fotogenico, ma come cantante comunque già, vuol dire che è una persona alla mano, ecco. No, a vederlo in televisione è una cosa, a vederlo dal vivo è tutta canta un'altra cosa. Abbiamo scatenato, se ti fa divertire a vero di fatto. Non credevo manco io, era così, poi la sera era carico anche perché era quello saputo, l'hanno appena appena fatto bere, si è bevuto un paio di birrette ed era ci siamo divertiti un bel, ma un bel, c'è il tabellone che un po' di niente fa farla, gli ha scritto, normalmente cosa l'ha scritto, a ti piace, allora, ma non me l'ha messo, va, ci siamo divertiti da morire, c'è il cartellone, lo mandavano gli sms, cazzo, la volta qua era un divertimento, era. Niente, ce n'era, sì. Cioè, era tutto pieno, questa metafora. Tutto pieno. Vabbè, dai, io devo fare un bianco. Continuo a fare quello che stavo facendo. Ce la risentiamo. Vediamo, c'è problema, già siamo qua. Avanti, già. Mica, poi c'era il tabellone, sul palco, e gli mandavano gli sms, sai cosa sms di disibucazione che hanno mandato, ma carità. Minimo, ma sicuramente lui cantando non se ne è accorto, cioè sicuramente ce ne va dietro le spalle. No, no, li leggeva, capito, a voce alta. Praticamente questa tipa gli aveva detto che aveva un bel... Poi si è messo a leggere davanti a tutti. Lui l'ha letto, poi neanche in sassarese gliel'hanno scritto, fammi ducare, voglio ducati, non so cosa. Ah, dai, era una cionfra, dai, l'ha presa alla fine per fare un po' di spettacolo, di allegria. No, lui ha detto, io dico la verità, non sono quello che si dice un bravo ragazzo, ho avuto un passato, un brutto passato, ho provato droga, ho provato alcol, tanto è vero che siamo andati a finire fuori strada con un amico ed è morto e ho dedicato la canzone a questo amico. Ah, ecco lo dicevo, ma non sembrava dalla faccia, Sì, è stato in mezzo alla droga anche. Adesso non lo so se ne è uscito oppure se c'è ancora. Ma speriamo bene per lui. Quando era ieri, dai, stavo sentendo a Leoncino e da casa sua sta facendo un bel male, eppure mi ha, se non ho capito male, dice che ha comprato il capoluogo, 15 metri, gliel'ha piazzato, ma esce sempre male, sicuramente ci avrà qualche problema con l'antenna. Io non so, ce l'aveva la prima di queste tante, usciva bene, non capisco perché se l'ha cambiata. Per mettersi l'antenna superiore, invece ha fatto una non è andata bene, non c'è qualche cosa che non va. Però le tocca ripiazzare quella che c'era prima, a me arrivava benissimo, senza nessun problema, tanto ormai maniere di grandezza non se ne fanno più. Così vicino a te mi è arrivato un po' basso, 9.20 ma... Prima 9.20? Cazzo. Ma ieri lui mi arrivava, Santiago Toi, la radio era incomprensibile. Ragazzi, no. Lui almeno 9.40 dovrebbe arrivare. Quello sì, ma a me arrivava, io mi ricordo, Santiago 7, Radio 5, ma la radio era bella, pulita, abbastanza accesa. Ieri proprio era inascoltato, non si capiva niente. Poi dice che il cavo l'aveva comprato nuovo, sicuramente l'antenna, gli tocca risalire e ripiantare quella che aveva, che andava troppo di lusso. Proprio vero, che lascia la vecchia per la nuova. Poi a cantuvare, No, io la verità già mi sono trovato, sono stato fortunato, nel senso, sì, adesso ho imparato, ma quando ho comprato l'antenna c'era ancora disponibile, già proviamola, ho detto perché no, potrebbe andare bene, tanto io pretese non ne ho, però ho visto che già funziona abbastanza bene, ecco, risuona anche bene in bande laterali, no, senza nessun problema, vabbè, funziona dai 26 ai 30, il suo lavoro è quello. Funziona bene, senza problemi, sopra anche, poi per il prezzo anche che l'ho pagata, voglia, qualità prezzo va più che bene qua in zona. Vabbè, l'unica cosa di quella tenna esce bene, però l'unica cosa che c'ha è che praticamente è troppo fino il materiale, se no sarebbe una bella antenna, perché uscire esce bene, capito? Ma tu la stai paragonando però alla Mantova? È tutta un'altra tipologia di antenna, la Mantova è molto più pesante, molto più grande come antenna, dunque è più robusta per quello. dovrebbe, penso dovrebbe essere bilanciata per il peso, che poi è molto, molto leggera già, la puoi prendere con la mano tranquillamente in verticale. Lo so, però da problemi con la pioggia, insomma, strutturalmente ci sono persi, perché se no con l'antenna va bene. Penso io l'ultima volta che ha avuto problemi è che c'è la guarnizione che si è, diciamo, rimpicciolita, non faceva ben spessore con una protezione. E mi è entrato sicuramente un po' di umidità e c'era un po' di ossido, che ho pulito benissimo, senza nessun problema. L'ho protetta di nuovo, gli ho messo il grasso, un'altra guarnizione nuova, leggermente più grande, dunque da aderire bene. Io ci sono salito un mese fa ed è sempre perfettamente asciutta. Perché c'è un limbolico di protezione della spirale, il rame, il limbolico è fatto trasparente, dunque riesce a vedere tutto dentro, le saldature e le connessioni. Ho visto che è asciutta, adesso l'ho fatta bene confronto a prima. Tu metti di silicone, l'acqua di silicone, la guarnizione, vedrai che non è tra più dietro. Io invece non ci ho pensato, gli ho messo il grasso, prendete di nuovo il grasso per aderire bene, scivolare e poi isolare, e visto che sta andando, poi ogni tanto non mi costa niente salire e controllare, già si fa in fretta. Poi per il momento va più che bene, ho riattirato un vento per dire l'anno scorso, lì è sempre una meraviglia, flette, dove già si era dritta subito, qui c'è Marcolo ma non mollo, già sono contento, dai, a voglia. Dipende dal vento che tira, mi sa che un po' del foratore si è subito troncata in due col vento, col maestrale. Quello sì, ma vedi, già ce ne presento dove abito, quando tira il vento qua lo stesso si fa sentire, è abbastanza aperta qua come zona. Ma voglia, chi è avanti? Propagazione? No, non ho fatto un fischio, non lo so, chi è? Vabbè, vuol dire non vuole entrare. Che stavo dicendo, comunque è una buona antenna, ti ripeto, perché a Leoncino, si attegge a Leoncino, a Polottore se mi sento benissimo. E Leoncino, che il mio tipo di antenna aveva? Prima sì. Ha energia mezz'onda? No, c'aveva quella senza radiale. La mia è senza radiale, sì. Quella lì c'aveva. C'aveva quella lì. Però era un punto messa male, non lo so, non viene bene a piazzare quel carrasco, è un casino. Dovevo mettere fuori dalla finestra, toccava nei radiali, insomma, non era piazzata bene, pure usciva bene lo stesso. Lo so, adesso speriamo che riesca a risolvere il problema, ma sembra che anche lui sia un pochettino abbandonando, prima era abbastanza presente. Sì, si era staccato dalla macchina, non lo rintracci più, prima lo chiamavi e ti rispondevo, adesso non fa nemmeno il telefono perché non ne ha più in macchina. Ah, non c'è più, perché non ne ha più, si era tolto dalla macchina, io sapevo che ti dica, fascescia già. Già entra, sicuramente, se sente niente già entra. Lo so, però ieri ci ha provato, l'ho sentito sul 5, ma aveva un saccaccio di problemi di trasmissione. Dunque sicuramente ha mollato, speriamo che gli metta mano, che poi già ci vuole poco, mi controlli bene le saldature, se non sei convinto, gli arrivi fai nuova con calma e come si deve, se devi spettarli dai con la misura lì, sempre che poi l'importante sono le saldature, e il gioco è fatto, non è che è così tanto difficile. Ma lui poi magari ce la prende, capito? Perché l'altra volta non è voluto uscire perché dice che era senza filo, senza cavo l'antenna. Allora c'è questo adesivo, 15 metri di filo, cosa vuoi che costa? E infatti, 2 PL 5 euro, 2,50 l'uno, se c'è già lo saldatore e un pezzo che ti prendi 50 centimetri di piombo per saldare, il gioco è fatto, ci vuole veramente poco. Fai qui 16 euro e hai risolto il problema, 16 euro. Sì, ma infatti, ha detto che se li ha presi i piedi. I piedi ci ha preso. E già manca, porca miseria, prima era più presente, ma speriamo che riprenda. Ma come quella volta ci siamo divertiti troppo. già, già li piace, già, ma lo sanno. E vedete ogni apparente che non credeva in voi, porca miseria. Ogni volta, ogni persona che incontrava subito lo salutavano, ma lo sanno, internazionale. Adesso vediamo, in questo periodo ancora non c'è nessuna, non c'è niente in programma. Se c'è qualcosa di carino che fanno ogni tanto, già ti faccio sapere. Ti do un colpo di telefono se caso ci sentiamo al baracchino, ti do un colpo di telefono e se hai la possibilità sali, già non c'è problema. Ma non dobbiamo aspettare le feste, Antonio, possiamo uscire lo stesso noi sabato, non c'è problema. A farci una mangiata, mangiarci una pizza, fare qualsiasi cosa. Si organizziamo e volentieri, questo cerco di spiegarmi alcune cose. Qui te la pulite, sono riuscito un altro venerdì, un trasloco, e vediamo come si comporta sabato. Se riusciamo a finirlo di venerdì, sabato sono libero, se no tocca lavorare anche sabato tutto il giorno. Bisogna vedere quanto è grande questo trasloco. Ma sempre per quella ditta là? No, questa è un'altra ditta che quando viaggiava a Olbia, lo vedevo ogni giorno questa ditta, col numero di telefono di Sassari. Preso il telefono, me l'ho messo da parte, è passato un mese, ho detto ma io provo a chiamare, proviamoci dai. Ho fatto un colpo di telefono e domani mi ha voluto il mio curriculum e mi ha preso così in prova un giorno, ma questo qui non è sempre che ha traslochi, alla fine a volte ne cambiano 3-4 la settimana, a volte niente, comunque meglio di nulla. Pagano bene, sono contento, almeno quello, pagano bene, mi ha provato, contentissimo. Beh, il mio lavoro, gli ho fatto 19 anni, non ho problemi, non c'è nessuno che mi stare dietro lì e dirmi cosa, prendili e finisco senza ritornarci due volte, contento, e ogni volta che c'è qualcosa la mattina verso le 10 mi chiama sempre. Almeno qualcosa di sicuro ce l'hai, ma questo qui è una ditta di Olbia. No, di Sassari, lui viaggiava a Olbia, sicuramente c'era anche qualche trasloco lì. L'ho visto così per caso, mi do una volta parlando, ma perché non proviamo? Cioè, non sono di Sassari questi. Quando ho preso il numero di telefono mentre ero seduto in macchina, no? Con la penna l'ho scritto già abbastanza grande prima di sorpassarlo, non ho memorizzato nel telefono, questi qui sono di Sassari. A Tilocca non c'è più Ausi, Antonio, è chiuso del tutto. Tilocca è massacrato sino al midollo. E a Sarabuzzo. Tutto quanto, e quel poco che è rimasto non si può toccare niente perché è tutto sotto sequestro, sia il palazzo, l'arredamento e sia l'abitazione, la villetta che hanno in paese, che non l'hai mai visto tu. Dico veramente una bella casettina, è terreno che hanno intorno alla casa e anche quello lì a quanto pare sotto sequestro. Come mai bancarotta non fa? C'era la piazzetta, avevo preso la cucina da Tilocca, c'era la piazzetta quella con lo sporto che ha un ticchio che sta tutto tremandosi sempre, poi ho detto ma come cacchio fa la vuoi questo? Ah, mi guarda simpaticone, quello è Stefano, abita lì al Monte Rosello, sopra, quasi vicino alle scuole, e c'ha problemi di nervi. C'ha dei problemi di nervi che purtroppo ha provato a curarsi, non ci è riuscito, ma è abbastanza fuori. Tu devi vederlo quando prendeva il tassellato, doveva fare fuori per i pesi, non per attaccare la guida. E purtroppo c'ha questi tic veramente impressionanti, che quando li bucava talmente c'ha forza ormai il nervo, perché sempre in movimento 24 su 24, ogni volta bucava sempre il muro dell'altra stanza, le risate qua. E a me mi ha sbagliato la cornicetta che si mette sopra il pince, una tagliata male, vabbè. E infatti non è il lavoro che può fare, dovrebbe fare qualche lavoro a star seduto, quello lì è cosa. Come ti vai a fargli mancare la gente? Ma chi Stefano Maradona? Stefano, quello sai dove, che è sposato con una che è il tabacchino sua al Monte Rosello. E piccoletto, un ragazzo piccolino. No, Stefano ha già 40, dai, forse ha 43 anni. No, come lo stai dicendo io. Guarda, in poche parole, se tu dopo che fa fai, aspetta, via Grazia Deledda in punta, arrivi a un certo punto, c'è il semaforo, prosegui su per andare alle scuole e questo tabacchino ti risulta sulla destra, è leggermente nascosto, rimane questo tabacchino qua, che dovrebbe essere la penultima traversa sulla destra prima di arrivare alle professionali, sempre salendo su in via Grazia Deledda. Ma c'è una macchina blu per caso, un nuovo volume? Sì signore, sì, Stefano Dieni fa di cognome, non è neanche sardo, è sposato lì con la figlia del tabaccaio da anni. Che dici, c'ha? Quello lì è Stefano, sì. No, moglie. Ho lavorato per 3 anni con Stefano. No, 2 anni. No, perché io stavo lavorando, ho dato un colpo di mano, questo amico ci ha lavato la guardia, abbiamo lavato la macchina, ma per carità, la macchina, non la macchina, un cantiere c'era dentro, ma si porta, vabbè, non so, c'è i bambini, ma era proprio allucinante. Ma io capito che stai dicendo, ma perché non ci prende la macchina? Ho capito, cosa c'è del baracchino? No, lui non c'è più la tabacchino. Sì, io so che c'è. Io l'ultima volta l'ho visto. Perché prima, poi l'aveva mollato, poi ha preso la dattiloca per 4-5 mesi e poi se ne è andato di nuovo. Lui ha fatto sempre il mobiliere. E dovrebbe lavorare lì. No, tu il bello di vedere il fosso che ha sotto nel pedale della frizione, che quando preme c'è i ticchi anche nelle gambe, vedi tu quando cambia, quando mola la frizione, è impressionante. Ma non è, quelli c'ha dei ticchi strani, è vero, vabbè, no, cosa ci vuoi fare, è così, non ci puoi fare nulla, vabbè, riprendi già. E finisco di mangiare io. Ti dico la verità, prima volta che sono venuto a casa mi sono fatto la risata. Non ho visto tanto. Un ticchio allucinante del venuto. La camicia mi sono spaventato pure per tutta la vita. Perché molti a volte non dicevano niente. Poi quando prendevano un pochettino di confidenza, diciamo verso mezza mattinata, no? E un po' ti conoscono, te lo chiedevano a vedere se aveva problemi, giustamente tu glielo spiegavi con calma che purtroppo è nato così, ha piccoli problemi ai nervi e non si può fare altro, deve tenere così per vita. Ma dico che c'ha dei muscoli impressionanti perché è sempre in movimento. Guarda. Avanti, chi chiama l'Italia? Avanti, l'Italia risponde, avanti. Ma chi entra mio hermano? Da dove parli? Dalle Spagna? Tia, buonasera Spagna, aspetta che vedo un po' di aiutare un po' la situazione. Buonasera Spagna, ben sentito qui. Antonello Barracuda, modulazione Nord Sardegna Italia. Gianato Giapp, che si chiama Padron. Cappa. Siete un mio hermano, buon Starber, è l'operatore del terrore della città di Sassari, nord Sardegna Italia, che ti squiccia al 100%, mio hermano, avanti. Sento un bel basso. Sicuramente la propagazione va e viene, lo sento appena appena, però riesco a tirarlo fuori. Avanti l'amico, se copi l'Italia. Andato, già, non l'ha proprio compreso, no? Lo sento troppo basso, se è alzato il QRM lo sento un bel basso. Attento, mio hermano, nada a escusiarti. Prendiamo Antonio, quando vengono più tranquilli. È giustamente la propagazione, ma già arriviamo anche lì, già va bene lo stesso. E dunque purtroppo ha questi problemi, ha fatto sempre quel mestiere, immobiliere, che per i ticchi sono già, lavora anche abbastanza bene. E poi se n'è andato alla fine, poi stiamo parlando di Tiloca, giustamente quello è disintegrato, non esiste più, deve una barca di soldi, alla fine si sono rovinato per i debiti, solamente guardava, guadagnavo neanche un miliardo di invecchierire durante l'arco dell'anno in consegne, che non è poco. C'è poco. Lavoravano bene, io mi ricordo che avevano anche una buona tattica quando arrivava il cliente, a noi ci aveva regalato un quadretto con la cornice d'argento, il padre però, il vecchio. Sì, quello è vero, il padre ce l'aveva, e infatti alcuni quadri ancora erano rimasti giù invenduti. Sì, quadri cornice d'argento, specchi, un piccolo pensierino lo faceva sempre, quegli oggetti li comprava da parte per poi regalare ai clienti, quello c'è, è vero, Poi dalla parte dei figli invece mai, sono state sempre della legna verde e per quello hanno fatto una bella fine. Questo impero che ha costruito il padre non sono riuscito a portarlo avanti. Assolutamente. Guarda, dopo il padre sono durati, guarda, 5 anni. In 5 anni si sono completamente rovinati, guarda, no, non possono più risalire perché l'hanno fatta troppo grossa, si credevano intoccabili. C'è anche concorrenza, anche se il palazzo dell'arredamento di Tirocca era nominato, tant'è vero che noi prima di sposarci ci abbiamo fatto un giro e siamo andati via Ussi, siamo andati in altri paesi, siamo scesi a Porto Torres, siamo andati da tante parti prima a vedere i mobili, e avevamo preso la cucina lì. Oh, di cucine diciamo avevano delle ottime marche. È veramente buono, ma c'è la cucina, che camere, che sale, non abbastanza, delle marche abbastanza sculente, la verità, non trattava mondezza, quello è poco ma sicuro, però da parte dei figli non c'è stata nessun impegno, tutto volevano senza tirarsi sulle mani, che poi vedi cosa succede. Qui si chiama Sicchi, c'è tutti i pezzi Aristo. La Sicchi cucina non le fanno più, quelle no. Poi erano sempre delle buone marche, io piazzavo la sira cucina e la zappa all'orto, che erano una cucina da 45.000 euro in su, e poi c'era anche la Prodomo come azienda, e poi chi la si piazzava altre. E ogni tanto la Scavolini, ma non era sempre, più di più la sira cucine, che ci aveva diciamo la vendita autorizzata, ecco. Paga. È proprio vero, ciò che producono, che fanno i genitori, no, i figli non riescono a portarlo avanti. Ui, magari dare. E mio padre quante volte me l'ha detto a me, c'aveva una calzoleria, mio padre le faceva cinture, scarpe ortopediche, faceva tutte queste cose qua. Mi diceva, va bene imparare, dopo quando io non ci sono più, oppure anche prima, se non qua, o se io vado in pensione, se te ne vuoi aprire un'altra, te l'apro e comincio a lavorare. Io sono andato un paio di volte, la verità un po', non mi appassiona abbastanza, dico la verità. E mi è venuto un po' male dirglielo, però lui ci è rimasto un po' male perché tu dovevi imparare il mestiere di tuo padre. Ui. Mio padre ha lavorato 10 anni al calzatore ufficiale di Varese come capooperaio prima di fare il calzolaio, eccetera, eccetera. Faceva le scarpe lui, costruiva le tomaie, faceva quelle scarpe di campagna tutte cucite con lo spago e la pece. Ascolta, beh, non te lo puoi far insegnare. Adesso mi viene un po' male, Antonio. Ah, come l'ho detto. Quando volevo insegnarmelo era ancora vivo. Niente, non so cos'è, il primo periodo mi metteva a quelli chiusi che ricadevano con la calamita, eccetera, eccetera. Mi ha un po' buriato questa cosa, no? Io volevo imparare da subito, capito? E lui faceva la pece, allora faceva lo spago con la pece, scaldava la pece a casa, si faceva questo spago con la pece proprio per gli scarponi di campagna, perché la pece isola lo spago e non lo fa marcire, capito? Vecchie tecniche, beh, sarebbe stato bello, la verità, imparare queste cose, è anche una buona opportunità di lavoro. Uno deve anche pensare come gira la situazione, dice, con la scuola della crisi, queste scarpe si possono aggiustare, sì, benissimo, e c'è il risparmio alla fine. C'è qualcuno sa se che lavora ancora bene dietro all'entrata di Multinitu, non so se ce l'hai presente, vedo che quello lì lavora abbastanza, ma non ce ne sono poi così tanti di calzolai in giro. Ma dove? Sto dicendo, io è a Sassari ed è all'entrata di Multinido, dove c'è quella rampa per salire su nei parcheggi, in quella via lì sulla destra, sulla sinistra te lo trovi, proprio di fronte alla rampa per salire nei parcheggi di Multinido. Adesso mi ricordo come si chiama quella via. Ma quale Multinido? Ce ne sono un bel Multinido a Sassari. C'è via Mendola, c'è via Granscia. Via Mendola, dietro via Mendola. Non lo conosco. Chi lavora molto bene è quello di via Livia, via Livia dietro il Ponte Nuovo, lì. E sono degli uomini abbastanza giovani, però lavorano bene. Papà gli aveva regalato, quando ha chiuso il negozio, un po' di attrezzatura. Li stanno continuando, vedi, ma che ti fa il giro, diciamo, sono onesti, già è già un lavoro che rende lo stesso, già si lavora anche lì, e sarebbe anche bello impararlo. Peccato non ce ne sono scuole per questo alla fine, per dare l'opportunità di lavoro anche ai nuovi giovani, perché ma è tranquillo che non ti prende nessuno a imparare, perché se stai lì in negozio devi essere assicurato per imparare, dunque alla fine nessuno lo fa. No, dal comune a papà lo volevano per insegnare il mestiere al ragazzo. Pagato naturalmente quando lui era in pensione, volevano che andasse, non c'è voluto andare. Non c'è voluto andare perché ha detto già mi fa male averlo smesso il lavoro, se riprendo a farlo vedere cosa mi viene la voglia di lavorare. Siccome lui il dottore gli ha detto di non andare più perché una volta si è sentito male in negozio. E l'ha trovato un cliente, l'ha chiamato l'ambulanza e ha avuto questo malessere, il dottore ci ha detto se deve continuare ci vuole qualcuno di voi che stia sempre lì, che resti sempre lì per farlo lavorare, in modo che se sta male c'è sempre qualcuno, oppure direttamente rieliminiamo la bicicletta perché proprio è appassionato di bicicletta e gli hanno eliminato sia la bicicletta che il lavoro, gli hanno tolto un pezzo di cuore. Già me lo immagino già che abbia sofferto, però vedi, potrei anche decidere di andare a scuola, tanto lì c'è sempre gente, non rimaneva mai da solo se avrebbe dovuto insegnare, ecco. Ma secondo me potrebbe essere anche la cosa più giusta per dargli un pochettino più di vita, ecco, alla fine avrebbe continuato la sua passione, però diciamo sotto controllo da parte di chi c'era lì, degli alunni, ecco un esempio, dunque alla fine non sarebbe stato mai solo. Ma infatti, guarda, era praticamente un progetto per insegnare i vecchi mestieri ai ragazzi giovani, chi voleva imparare i vecchi mestieri, che ci fossero dei calzolai, dei fabbri, dei maniscalchi, eccetera, eccetera, che insegnavano il loro lavoro, capito? E niente, dice una cosa buona perché portiamo avanti il tipo di lavoro come era anche come si faceva prima, eccetera. Poi mio padre non si limitava a aggiustare scarpe, mio padre costruiva scarpe di campagna, te l'ho detto, cinture, faceva tutte queste cose qua, borsette, era tipo alchimia, non so se ce l'ha presente a Sassi. Sì, io già ce l'ho presente, l'avevo già... E lo sapeva fare il suo mestiere. Peccato. E sparendo stanno anche quelli purtroppo. Lavoro manuale mi sa che è mia distinzione. Se non hai tutto pronto, fatto dalle macchine, 448, non è. Sembra che le cose fatte non abbiano più valore alla fine, ecco. Poi mio padre, se vedeva che c'era gente che aveva bisogno, a volte andava gente di campagna e diceva, signor Ma, non ha giudina e ho l'unico paio di scarpe che ho è questo, non è che me le può fare subito, poi già ci arrangiamo. E mi porti, dice, un coniglio, una gallina, un po' di uova e siamo a posto. Capito, non è che gli dava problemi e cose, non c'erano i soldi, li portavano, ci andavano con un coniglio, con una gallina, oppure gli portavano le uova, capito? Si faceva ripagare così, e non è bello lo stesso, non ci stai guadagnando. E ti danno i soldi e poi devi rispenderli per comprarla, quindi è la stessa cosa. e chi li porta a Valori, o chi li porta a Valporcetto, chi li porta a questo. C'è anche un ragazzo che aveva chiesto una volta se lo prendeva a lavorare, lui gli ha detto, mio padre prima era praticamente in società con questo, quando hanno iniziato era in società con questo signore, poi questo qui ha fatto il concorso in ferrovia, l'ha vinto, e gli ha detto, va Mario, mi dispiace perché sei una brava persona, però io ho vinto questo concorso in ferrovia e me ne vado. E mio padre è rimasto lì di colpo di punto in bianco, che si doveva gestire tutto, comprare materiale, eccetera, eccetera. All'inizio, sai, è un po' in salita, sì che lo fai in due, dividi tutto e via. E niente, non poteva tenerlo questo ragazzo, e questo che ha insistito, gli ha detto che voleva aprirsi una calzoleria, che era di un paese, nel suo paese non c'erano calzolerie, e voleva imparare il lavoro, e ha detto vabbè, visto che c'è questa buona volontà, io ti faccio venire a guardare come si fa, e ti spiego le cose quando le sto facendo. Dice, questa è una volontà che in poco tempo ho imparato, l'ho fatto provare, e ogni tanto, dice, ogni giorno gli mettevo qualche cosa in mano, di soldi, non dico uno stipendio, però qualche cosa gliela davo. Beh, questo qui si è aperto la cartoleria in paese, quando se l'ha aperta l'ha invitato all'inaugurazione, eccetera, eccetera. E ogni volta che scendeva dal paese, ogni volta li portava olio, o li portava il porcetto, o li portava il vino. E vi te l'ha ripagato così perché l'ha insegnato. È stata una cosa buona, questo è durato molto durante, diciamo, quando hai iniziato a imparare, molto è durato lì per le lezioni. No, non è durato, non è che è stato solo imparare, perché poi mio padre ha visto che era bravo e cose, l'aveva proprio assunto, capito? Proprio, l'aveva preso proprio a lavorare. E diciamo che ne ha insegnato un po' di persone. Uno l'ha sgamato lì. Scusa un attimo. Attenzione Spagna se copri l'Italia. Attenzione Spagna se copri l'Italia. Buonasera Portogallo, ben sentito. Operatore Atrello, Barracuda, modulazione Nord Sardegna Italia. Buonasera, ben sentito. Santiago 2, Radio 3. Buenas noches, mi hermano. Escuchi l'operador Delta Romeo della città de Sassari che ti chiama. Noi dove eravamo rimasti, racconto? È che questo ragazzo, diciamo, tuo padre l'ha assunto lì, allora sicuramente si è fatto un po' di anni. Sì, si è fatto qualche annetto lavorando lì e poi quando se ne doveva andare era un po' mortificato, per dirglielo a mio padre. Mio padre ha detto che ha perso un braccio destro perché era veramente bravo. Ha voluto imparare ed era di quei ragazzi che proprio ci rammettevano tutta, li chiedevano, faceva, e dice guarda, veramente bravo. Ha voluto proprio imparare, aveva la costanza di seguirti, e quindi questo dice mi soddisfava molto. E poi quando se n'è andato si è aperto appunto la cartoleria in paese e l'ha invitato all'inaugurazione, mio padre ci è andato, ma affezionato a mio padre come se fosse un figlio, nel cavolo era. E dopo di questo qui si è presentato un altro e mio padre ha pensato che fosse come quello lì, invece ha sbagliato. Questo qua aveva detto di aver fatto la fiducia, tutto quanto, aveva le chiavi, eccetera eccetera, apriva prima lui, poi arrivava mio padre, ecco. Beh, questo ragazzo, mio padre, premetto che ordinava la roba da continente, da questo Dani Armando in continente, e era tutto ammarchiato, il buio, tutte queste cose qui, tutte ammarchiate. Era roba molto buona e costava meno di qua, quindi la ordinava da fuori, gli arrivavano questi scatoloni grandi pieni di cuoio, di cose. Beh, fatto sta che un giorno è andato da questo suo amico che è calzolaio, è andato a trovarlo, si sono salutati e l'ha visto tagliando il cuoio. Ma scusa, questo cuoio chi te l'ha dato? Dice, è venuto un ragazzo e mi ha detto che suo nonno è morto e così usava questo tipo di cuoio che era calzolaio, questo e quell'altro, e mi ha venduto un po' di materiale, cuoio, chiodi, ecco lì c'è la cosa che mi mancava a me. Dice, lo sai che questa tua roba mia, guarda, tanto deve venire alle 3 a portarmi della roba. Mio padre si è nascosto nella retrobottega, e tu ti nascondi nella retrobottega, le prendeva a venire, ci abbiamo l'appuntamento. Si è andato con i chiudi, con tutta questa roba, e mio padre è uscito fuori, quando è uscito fuori che gli stava prendendo la roba, si è fatto bianco. Cazzo, proprio smerdato in pieno. Ma mio padre aveva riconosciuto il cuoio dal taglio, se ne è reso conto. E niente, l'ha mandato via di brutto, è stata una delusione per lui, però, perché pensava di sostituire, adesso ormai si era abituato, che ci aveva l'aiuto e cose, perché io dico una cosa, tutti i cantori dovrebbero avere il lavoro che fa mio padre, perché mio padre se ne portava anche a casa, si preparava per dire le suole, le incollava e poi l'indomani le cuciva, capito? Le erano già incollate, faceva prima. Mio padre diceva, ma smetti, la cosa ti porti lavoro a casa, stai tranquillo a casa, no Maria, non posso buttare, mandare via la gente, bisogna accontentarmi tutti i clienti, e se resto al lavoro, se resto al lavoro tu mi dici cosa, quindi me le porto a casa, comincio a mettermele in preparazione e poi domani le finisco. Proprio si vedeva che proprio gli piaceva come mestiere alla fine. Se no uno come ne frega niente, se lo porta alla fine lavoro a casa. Avrebbe potuto continuare domani, il cliente avrebbe aspettato il suo turno. E vuol dire che gli piaceva, se no non l'avrebbe fatto, vai tranquillo. Antone, sino a mezzanotte stava lavorando, sino a mezzanotte. E questo l'ha fatto per tutta una vita, così, questo ritmo di lavoro. Sì, sempre. Lui andava in ferie e dopo un paio di giorni diceva a mia madre, io voglio ritornare al lavoro. Quando gli ha detto che doveva mettere a lavare, no, io non me ne vado al lavoro, è un dispetto troppo grosso che mi fanno, e cosa faccio se non lavoro? Mamma mia, no. E poi ce l'hai nel cuore, io non sono così. Sì, un po' giustamente un pochettino più di libertà ci vuole, te la svaghi, sicuramente anche per lui era sia un lavoro che uno svago, dunque se gli toglievi quello guai, vuol dire che c'è nato e c'è poco da fare. E poi sicuramente un po' per rigonchi, dai, come si dice a Ussi, che dicevi le cose però era come diceva lui, dai, sempre nell'ambito del lavoro, o di fare le cose, o di non riposarsi. Adesso per dire era in ferie, se non andavano in continente perché solitamente facevano viaggi fuori, mio padre era milanese, quindi tutti i parenti ce li aveva fuori, andavano fuori con tutti i bambini piccoli e cosa, andavano a trovare mia nonna, mia zia, eccetera eccetera, a Milano, e quindi sai, però non andavano fuori, quasi sempre ci andavano, ma se non andavano lui si metteva a fare lavori a casa, a pitturare, a fare, era sempre facilino, mio padre è stato sempre così, e riparava e questo e quell'altro, e lui ci metteva la colla di calzolaio a tutte le parti. Come questo signor Giuseppe che lavorava con me, mobiliere, qualsiasi cosa, lui ha silicone trasparente, se toglievi quello dalle mani non lavorava più. Ma silicone lo uso molto anch'io, per dire, ti faccio un esempio, l'altro giorno mia moglie ha voluto che io riapprendessi il televisore, mi ha fatto la testa a cacco, sino a quando l'ho accontentata, e ho preso la staffa, 50 euro solo la staffa, guarda, una cosa, ladri sono, che se ne approfittano un bel. Lo so, e non dirmi che hai attaccato la staffa col silicone al muro, no? No, ma che stai a dire? No, ho attaccato la staffa tutto quanto e tra la base e il televisore si vedevano i fili. E allora ho detto, adesso prendo una canaletta, ripeto, una canaletta bianca e li metto, però mi dava fastidio per un pezzettino di canaletta trappanare il muro. E allora cosa ho fatto? Ho preso silicone bianco, l'ho messo dietro, l'ho attaccato al silicone ed è un bombo. Aspetta già, tu hai usato il bianco o il trasparente? Perché se hai usato il bianco te ne scende, ci vuole quello trasparente, acetico, quello è veramente... solito micidiale. Il bianco ho usato il bianco. No, si è attaccato subito, ma ti dico immediatamente, si è attaccato un paio di 15 minuti era già uscito. Si è attaccato proprio, non è che ne scendeva. No, già va bene quello bianco, io l'ho sempre usato, non ha mai avuto problemi. Ma io preferisco la verità, il più trasparente. Ha molto più azione collante ed è molto elastico, ma lo usano quando attacca bene quello bianco e micidiale. Guarda, quando dovevamo piantare i lanciatini in cucina per non filtrare l'acqua, giustamente usavamo il trasparente. Il bianco lo usavamo solamente per rifinire alcune fughe, se no sempre il trasparente. Sì, quella timufa si usava vicino alla lavandina, alla veglia e roba del genere. Io l'ho usato bianco perché lui era bianco, quindi anche se non si vede dietro, e tu mi dirai, però diciamo una volta che poi tu lo togli e cosa, se non si vede è meglio, dai. Ma comunque è un pezzettino, che cosa deve tenere? È una canaletta piccola. No, per carità, l'importante è che tenga. No, così per fatto tecnico, perché la maggior parte noi usavamo quello. Sia per adesso un esempio stupido, quando dovevamo preparare l'esposizione, che avevamo diciamo i pannelli in truciolare che dividevano per dire l'ambiente, facevamo letteralmente in truciolare, appoggiavamo la cucina, le piastrelle per rifinire l'esposizione le attaccavamo col silicone trasparente, e quando dopo 2 o 3 anni dovevi cambiare l'esposizione, buttare tutto giù, le mattonelle non riuscivano, dovevi rompere per forza con la mattetta, perché il trasparente è una cosa impressionante, e poi scrostarlo col raschietto, e dico che veniva veramente male quello trasparente. E lo so, io li uso tutti i tipi. Quello trasparente solitamente per attaccare il vetro lo uso quello trasparente, però in base al coso uso quello nero, uso quello bianco, anche il nero uso, per dire, per fare la rifinitura nella macchina quando ha attaccato l'antenna, per fare la rifinitura attorno al gommino dell'antenna, se tu vuoi vedere che rifinitura è, che tu non ti dà bisogno di manco, che sia silicone. E ho messo il silicone prima di stringere e poi ho stretto, quando il silicone ha bello attaccato, come ho stretto, gli ho passato il dito piano piano con un po' di saliva, perché si fa così, e ti esce liscio liscio. Esatto, sì, no, io prendevo invece al cliente il bicchiere di plastica trasparente, acqua del rubinetto e ci bagnavo il dito. Vabbè, è la stessa cosa, nel momento non c'è più acqua. Non so, è per quello, se dovevi rifinire per dire, non so, 3 metri di cucina con 3 metri di alzatina ogni lingara. Ma comunque, il silicone è una delle cose che uso di più io. Oh, capisci, c'è una bella invenzione anche quella, ti risolve un sacco di problemi, una bella invenzione. E mille chiodi è che abbiamo un po' di luce, lo sai. Sì, anche a me, secondo me va bene solamente per il legno, per il muro non va per niente bene, si rimane abbastanza cremoso, diciamo questa cremosità serve per aderire in pareti verticali, ma secondo me asciuga troppo lento e rimane farinoso. Ora, per quello preferisco il silicone trasparente, ma a 100.000 volte, quello va bene almeno per il legno secondo me, non di più, per attaccare un quadro non ci metti 1000 chiodi, al massimo puoi attaccare, cosa ne so, un applique in polistirolo per rifinire il lampadario, ma del resto non è così sicuro. No, io non lo vedo così adesivo come collante, preferisco molto di più. E poi avevo trovato questa colla che la usavo per i modellini degli elicotteri quando mi si rompeva qualche pezzo per ripristinarlo. Una colla che si miscelano due componenti e diventa dura. Sembra che non ce ne sia di colla, praticamente ti fa formare tutto un pezzo. Alla fine è quella specie di bicomponente per riparare diciamo piccoli fori nelle marmitte, quello stai dicendo, o acciaio liquido o cose del genere. No, no, è proprio un componente per la plastica, non per... Vabbè, ci saranno tutti i tipi. Capite, quello lo usate per che cosa? Dovevo l'incidente con gli elicotteri. Ah, ecco, nel modellismo. Scappa, rompevo per un'elica una cosa e la riattaccavo. Io l'ho avuto un piccolo elicottero, comprato dai cinesi, perché sarà stato, no, io lavoravo da nel 2010, tre anni fa, 2009-2010, l'ho comprato dai cinesi, quanto mi ha dato una settimana e poi si è completamente disintegrato, e poi alla fine non volevo manco neanche i soldi che gli spendevi per comprarlo. Poi me ne ho avuto da 60, da 120 euro, di quelli grandi, ma disintegratissimi. E con tutto che sapevo volare, mi anche con Luca avevamo la passione, una volta siamo andati anche a volare insieme. Dove lì a Valghero? No, siamo andati a Monserrato, a farli volare. È già abbastanza divertente quella passione. Il discorso è che a batterie ti durano pochissimo, guarda, non, a partire non ti dà tutto questo divertimento di avere sempre la ricarica presso più di una batteria. Poi invece se prendi quelli a motore cominciano un pochettino a salire su di prezzo, di minimo ci vogliono dare 700 euro in su per avere diciamo un buon modellino, senza contare poi il telecomando da parte. Minimo ti viene a costare sulle 200-250 euro, più la benzina che è abbastanza cara, è abbastanza dispendioso, come hobby, però è bello, mi sarebbe piaciuto approfondire, ma è la grana quella che manca. A vederli, io ho visto certi modellini, guarda, ho visto una alla torre che sembrava un aereo vero, c'aveva il turbo, era un caccia militare, un tornado. Invece l'ho visto, se non sbaglio, sì, quest'estate al lago di Tula c'era una piccola rappresentazione, poi un saccaccio di modellini, sia aerei che motoscafi e cose varie. Quello che mi è piaciuto di più erano le barche a vela, un piccolo telecomando lì con 120 euro te l'acquisti, nuova di zecca, che ti arriva dalla Cina, perfettamente funzionante, e tu la manovri col vento e facevano anche le gare, devi vedere come piegava, era molto divertente quello. L'unica cosa, devi avere la batteria a carica nel telecomando e lì nel dispositivo per muovere le vele, che infatti dice una batteria ti durava anche 3 giorni, standoci 12 ore ogni volta che ti divertivi. Dico che era veramente, che veramente è bello, A me di tutti i modellini mi piacciono di più gli elicotteri, sono appassionato proprio di elicotteri, mi piacciono tutti, però ho visto le ruspe caricando il camion, guarda, devi vedere come funziona. Sempre a motore a scoppio, no, quello la verità non li ho mai viste. Sì, io li ho visti, sono anche su internet, se vuoi andare a vedere. Ci sono le ruspe che prendono la terra, la caricano sul camion, poi il camion parte, scarica con ribaltabile. Sarebbe tutto perfettamente in miniatura, già sono belle, quelle che avrei voluto vedere, non me ne immaginavo neanche che ci siano cose del genere, neanche gli scavatori a motore. In miniatura un po' grandicella però, non sono mignon, sono un po' grandicelli, però sono bellini. Ne ho visto parecchi di questi modellini così. Poi c'è, non si direbbe però, una delle squadre più grosse a Porto Torres che fa queste che costruisce questi elicotteri, aerei da guerra, tutte queste cose qua. È un club di Porto Torres. Anche io ne ho conosciuto uno, che era il figlio di Appendo Arredamenti. Poi purtroppo nel 2000, se mi ricordo se erano nel 2004-2005, si è tolto la vita. Ed era veramente appassionato dei modellini, ne aveva pochi effettivi di campo, li costruiva anche lui, e poi stranamente è venuto il pallino e si è tolto la vita bevendosi la benzina degli elicotteri. Ma chi era Appeso? Ah, figlio di Appeso, ho capito. Anche lì ho comprato mobili, da Appeso ho comprato la sala, la camera da letto, la cameretta, solo Appeso ho preso quasi, e la sala ultimamente. No, Appeso ci ho lavorato dal 2000 al 2002, contratto formato di lavoro. Lì ce n'era porca mesi di lavoro, sia mobili giustamente di aziende esterne che quelli che costruiva lui. C'era una bella falegnameria e poi i figli. Via la falegnameria, via gli operai, hanno preso quelli, i medici, aziende esterne, dunque non pagavano né stipendi, né tredicesima né quattordicesima. Quelli guadagnavano, più consegnavano, più guadagnavano, dunque giustamente ci guadagnava anche lui. Poi ci ho fatto 2 anni, sono stato veramente bene, super puntuale nei pagamenti, ogni anno a Natale preparava pranzo e cena e guai a mancare, si mangiava tutti insieme con la famiglia e gli operai, no, sono stato veramente bene, persone abbastanza alla mano e oneste, lì sì che stava veramente bene. È molto signorile come ambiente. Sì, pulito, ordinato, guai se c'era qualcosa fuori posto, o appena appena la facciata si scoloriva subito, venivano gli addetti, io a imbiancare, sempre perfettamente pulito e ordinato, no, non ne mancava mai niente lì, e clienti contentissimi, guarda un esempio, se capitava che così per sbaglio l'azienda mandava una maniglia in meno, tu il venerdì l'avevi, in giro 5 giorni, il corriere, e ogni venerdì si facevano piccole riparazioni o interventi, se c'era qualche problema durante l'arco della settimana, sia nelle cucine che negli armadi, no, capita una maniglia, mancava una maniglia, ci mancava un ripiano, oppure serviva un ritocco, ogni venerdì era dedicata agli interventi. Poi 5 giorni tu avevi già il pezzo quello che sistemato oppure sostituito. Invece la Tiroca ci volevano mesi e a volte anche anni per una maniglia, per il menefreghismo che avevano nei confronti dei clienti. Infatti ho sempre detto una cosa, meglio dare la metà quando te lo portano e poi il resto quando ti portano tutta la roba che ti devono portare, quello che manca. Sì, quello già è vero, guarda, appena ho lavorato 2 anni e non ho mai visto nessun cliente scontento, guarda, mai, neanche una lamentela, anzi, ci davano anche delle belle mance all'epoca, c'era la lira, dunque, anche 100.000 lire a testa o 100 a dividere in due. La Tiroca invece era una disperazione, c'erano tantissime misure sbagliate, pezzi sbagliati, camere complete totalmente diverse dall'ordine, era tutto un gran casotto. Dunque anche già da lì ha iniziato a perdere poi, con tutte le conseguenze che hanno avuto, e non c'era professionalità da parte loro. Chi piazzava si la lavoravano e tutti, quello niente da dire, però da parte loro era troppo benefichismo, papà pronta, le maniche non si le tiravano mai e dunque si volevano sporcare, vedi poi alla fine cosa succede. Aveva trovato a me. E alla fine sì, perché un impero ce l'avevano, dovevano lavorare. Adesso ti faccio un esempio stupido, T-Mobile, che adesso sicuramente il rivale non ne ha più, quello è poco ma sicuro. I figli lavorano, vanno a piazzare, fanno traslochi, guidano, per dire, se danno una mossa, lavorano anche loro, vedi, questo è da valutare, invece Tiroca no, assolutamente. Se dovevi, per dire, spostare un quadro, ti chiamavano e dovevi andare tu, lui ti era lì davanti, questo lo prendi e me lo metti lì, questo lo sposti, lo metti qua, lava qua, metti i tappeti da una parte, spostalo dall'altra. A parole, però con le mani mai, non sono mai andati neanche a prendere una scopa in mano per pulire in terra. Dunque questo ti fa capire un po' com'era la situazione lì, la mania di grandezza, ecco, alla fine. Appeso si vede che sono persone molto, molto squisite, ma anche Tiroca il vecchio era tranquillo. Paga Pantone. Ma lo sai che stasera, ragazzo, stasera stavo andando a lavorare e ho attraversato la tartaruga e sono riuscito a schivarla e praticamente è passata in mezzo alla macchina, chissà la velocità che ho, la succio che si era abbigliato. Poi al ritorno sono tornato e ho trovato la macchina in terra e c'era la tartaruga schiacciata. Scusa, mi sporto un attimo di bianco, ma c'era questa propagazione impressionante, poi se n'è andata, li stava anche coprendo, Beh, se non hai sentito la macchina sbandare vuol dire che non l'hai presa in pieno. No, sono passato al centro, lì al centro io sono passato dritto, io l'ho evitata, però c'erano altre macchine dietro. Credo che l'abbia fatto brutta fine. E comunque domani devi fare di nuovo lo stesso tragitto, vedi un po'. Italy Sugar, number zero, Delta Florida Bravo. Attention my friend, attention my friend, ascolti da Sardegna Italia. Italia Fogo Sardegna. Italy Sugar Zero, Delta Florida Bravo, from Sardegna. Marco, tu sì. Esatto, già, scusami, ho sbagliato il microfono, già, scusami, scusatemi, porca puttana. No, figurati, non c'è problema. Sono in 20 metri, vaffanculo. Adesso me ne sono accorto io, sono tutti gli M60 uno vicino all'altro. Scusatemi Gianni, davvero, scusatemi, volontariamente, scusatemi. Sì, non c'è problema. Avanti, Antonio. Ma che propagazione è questa? Perché arrivava abbastanza. Abbastanza forte. Stava parlando della Merkel, cosa del genere. E per quello che tu poi hai parlato, hai mollato importante. Ho fatto io un attimo di bianco perché sto cercando di capire chi cavolo era questo. Claudio che ha sbagliato il microfono, stava facendo ascolto anche da noi sicuramente. E probabilmente ha detto che ha sbagliato il microfono, invece di prendere quello della banda radioamatoriale ha preso il nostro. No, che questa qui era propagazione straniera, per come parlava, o era spagnolo o cosa del genere. Sì, Antonè, scusami, è la radio mia, capito? C'è un sudamericano a 14208, il banda amatoriale, e siccome c'ho tutte e tre MG60 vicino, ho sbagliato, sto ascoltando anche a voi, cioè sono al canale 10, ma ho visto, c'ho il volume basso, ho visto che c'era gente, quindi mi sono precipitato a chiedere scusa. Perdonatemi, sono cose che capitano ai rincoglioniti. C'è problema, ripeto, avanti Antonio, vediamo un po' se entra qualcuno. E io facciamo un attimo di bianco. E c'è propagazione specialmente, noi ci divertiamo. Intanto ci vuole. Ma eccoli quella sera che siamo stati parlando tipo QSO, così confuso. Mi ricordo con Leggi dintorni, era sul canale 1, guarda, me lo ricordo come se fosse ieri. Ero passa nei canali, sento nell'uno, ho fatto un po' di chiamato, visto che arrivava, aspettate un attimino che porto un amico, arrogiatate subito, io già, e cosa c'è? Vieni via, c'è una bella propagazione. E noi siamo divertiti, è la verità. Siamo stati tutta la sera così parlando. A livello di cosa? A livello di questo locale. Alla fine sì, è peccato che. È a sorpresa, queste cose purtroppo sono a sorpresa e non sai quando mai ci sono, dunque devi stare lì a tentarle, non è che sia così tanto divertente, però il giorno che lo trovi di buona propagazione già ti diverti. Speriamo questo periodo invernale ci sia un pochettino più di movimento. E vedrai che quando piove non esce nessuno dalla sorpresa. E quello già è vero, dunque ci aspetta. Già una buona idea anche quella, in periodo invernale già la gente è un pochettino più mandrona a uscire perché c'è freddo, dunque la gente è diventata un po' più delicata, vabbè con la scusa becchiamo qualcuno nuovo al baracchino, perché no? Io già ogni tanto già sono sempre in agguato. Il mio discorso al tono mi fa male, tutta la gamba. Ieri sera, ieri mattina prima di andare via. È arrivato il pesce. Ho scaricato la pedana col muletto, poi ho preso il traspaldi e l'ho infilato dentro ero convinto di averlo tirato su, ho preso il trasparente in mano, ah, dietro premetto che c'erano delle pedane accatastate, 4-5 pedane. Prendo il traspalo, vado a tirarlo, cazzo, ne esce il traspalo fuori, c'è scorrazzo, tanto sopra le pedane, ho sbattuto il polpaccio e praticamente io sono stato operato al ginocchio, ai legamenti e al coso, al menisco. E quindi praticamente ho risentito di questa parte dove sono stato operato e poi tutto il polpaccio come se avessi un crampo. Tuttora mi fa male, me la sento mezzo addormentata, non addormentata, ce ne presente quando non riesce a piegarla bene la gamba, è come se non volesse fare il suo lavoro. Io capito, sicuramente mi hai risentito, diciamo, degli ultimi colpi che hai preso. No, la verità, io pochi giorni fa ho trovato in paese, ma questo lo trovi anche in erboristeria, in parafarmacia, dell'argilla verde ventilata. E la devi fare un piccolo impatto con acqua demineralizzata, non dal rubinetto, in un contenitore di plastica, no, di vetro, non di plastica, e devi mischiarlo con un bastoncino di legno. Niente ferro, acciaio o plastica per fare questo impasto, dunque devi mettere argilla verde e acqua denaturata e fare una specie di crema e te la devi mettere nella parte dolorante e ti dico che funziona, Io l'ho provato, avevo dei dolori al piede, l'ho fatto al piede questo impacco, poi te lo devi togliere dopo 2 ore e ti dico che mi è passato il dolore. Poi ho fatto una ricerca, questo me l'ha detto anche la, diciamo, chi me l'ha venduta, che diciamo l'argilla, c'è una sostanza in argilla che viene usata anche per fare l'aspirina, il VVC, per dire il Momet, per il mal di testa, ci sono delle, è un estratto dell'argilla per far passare i dolori, dunque tu te la metti direttamente nella gamba, facendo questo impatto, infatti ti dovrebbe alleviare il dolore, invece al posto di prendere le medicine. Buono, come non sarebbe potuto di farlo. Non costa neanche così tanto, un R90, una piccola confezione, ed rende tantissimo, Solo devi stare 2 ore fermo con questo impacco, tutto lì finché non si asciuga e diventa verde scuro. Dunque da lì si è asciugato e devi lavarlo direttamente con acqua tiepida, tutto lì. Solo c'è l'assillo di aspettare 2 ore fermo, invece prende la medicina e riparti di nuovo, è tutta un'altra questione, questo è curarsi, diciamo, in modo naturale, solo che ci vuole tempo. E un po' di propagazione c'è ancora, però si sente che sta andando via. Ma è svanita. Non ti dico, oggi mi ha fatto compagnia le bande laterali, ce n'era di una bella cionfra c'era. Soprattutto c'è molta propagazione già, Va bene. Infatti ho fatto una scarrellata veloce. Cosa è là? Poi proviamo a vedere chi c'è. Io va. Da su 10, sì. Ma Gianni. Come? Chi sei qua? Ero sull'uno, Antonio. Ah, scusi, sull'uno, infatti stavo chiamando, andiamo sull'uno. Prima che metto, andiamo sull'uno, esatto. Infatti la chiamata e non giri. Ah, io sull'uno, Antonio. Qua sei già. È possibile. Antonio, ci sei? Ci sei già. Gianni. Gianni.